Capitolo 38. In quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adullam di nome Chera. Là Giuda vide la figlia di un cananeo di nome Sua, se la prese e si unì a lei. Ella concepì e partorì un figlio che egli chiamò Er. Poi ella concepì di nuovo e partorì un figlio che chiamò Onan. Partorì ancora un figlio e lo chiamò Sela. Giuda era a Chezib quando ella lo partorì. Giuda prese per Er, suo primogenito, una moglie che si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore, e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: «Vai dalla moglie di tuo fratello, prenditela in moglie come cognato e suscita una discendenza a tuo fratello». Onan, sapendo che quei discendenti non sarebbero stati i suoi, quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento per non dare discendenti al fratello. Ciò che egli faceva dispiacque al Signore, il quale fece morire anche lui. Allora Giuda disse a Tamar, sua nuora: «Rimani vedova in casa di tuo padre finché Sela, mio figlio, sia cresciuto». Perché diceva: «Badiamo che anche egli non muoia come i suoi fratelli». E Tamar se ne andò e abitò in casa di suo padre. Passarono molti giorni e la figlia di sua, moglie di Giuda, morì. E dopo che Giuda si fu consolato, salì da quelli che tosavano le sue pecore a Timna. C'era con lui il suo amico Chira, l'adullamita. Tamar ne fu informata. Le dissero: «Ecco, tuo suocero sale a Timna a tosare le sue pecore». Allora ella si tolse le vesti da vedova, si coprì d'un velo, se ne avvolse tutta e si mise seduta alla porta di Enaim, che è sulla via di Timna. Infatti, aveva visto che Sela era cresciuto, e tuttavia lei non gli era stata data in moglie. Come Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché ella aveva il viso coperto. Avvicinatosi a lei sulla via, le disse: «Lasciami venire da te». Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. Lei rispose: «Che mi darai per venire da me?». Egli le disse: «Ti manderò un capretto del mio gregge». E lei: «Mi darai un pegno finché tu me lo abbia mandato?». Ed egli: «Che pegno ti darò?». L'altra rispose: «Il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano». Egli glieli diede, andò da lei ed ella rimase incinta di lui. Allora Tamar si alzò e se ne andò. Si tolse il velo e si rimise le vesti da vedova. Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico l'adullamita al fine di ritirare il pegno dalle mani di quella donna, ma egli non la trovò. Interrogò la gente del luogo dicendo: «Dov'è quella prostituta che stava a Enaim sulla via?». Quelli risposero: «Qui non c'è stata nessuna prostituta». Egli se ne tornò da Giuda e gli disse: «Non l'ho trovata. E per di più la gente del luogo mi ha detto: qui non c'è stata nessuna prostituta». Giuda disse: «Si tenga pure il pegno e non esponiamoci agli scherni. Ecco, io ho mandato questo capretto e tu non l'hai trovata». Circa 3 mesi dopo vennero a dire a Giuda: «Tamar, tua nuora, si è prostituita e per di più eccola incinta in seguito alla sua prostituzione». Giuda disse: «Portatela fuori e sia bruciata». Mentre la portavano fuori, mandò a dire al suo suocero: «Sono incinta dell'uomo al quale appartengono queste cose». E disse: «Riconosci, ti prego, di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone». Giuda li riconobbe e disse: «È più giusta di me, perché non l'ho data a mio figlio Sela». Ed egli non ebbe più relazioni con lei. Quando venne il tempo in cui doveva partorire, ecco che Tamar aveva in grembo 2 gemelli. Mentre partoriva, l'uno di essi mise fuori una mano e la levatrice la prese e vi legò un filo scarlatto dicendo: «Questo qui esce per primo». Ma egli ritirò la mano ed uscì suo fratello. Allora la levatrice disse: «Perché ti sei fatta questa breccia?» Per questo motivo gli fu messo nome Perez. Poi uscì suo fratello, che aveva alla mano il filo scarlatto, e fu chiamato Zerach.